diciamo che abbiamo avuto anche questo compito nella nostra vita. E, però fortunatamente al Comune di Bologna, devo dire, sono un ambiente che è sempre stato molto attento ai cittadini. E, devo dire che a noi fa molto piacere questo laboratorio medico-paziente, io vi riferisco soltanto che questo era un tema che Achille Arrigò amava tantissimo. Perché lui vedeva, voi sapete che lui aveva teorizzato l'empatia tra il medico e il paziente, quindi diceva, al di là delle regole che spesso rendono burocratico questo rapporto, in cui tu devi gestire il budget, devi seguire una procedura burocratica, devi riempire un sacco di carta, adesso speriamo meno carta e più dematerializzato, però c'è, ci deve essere, non può non esserci tra due esseri umani, uno che è uno specialista, l'altro che invece lui chiamava uno specificato, da cittadino diventa paziente, no? Cambia nome, l'altro invece è uno specialista, ci deve essere qualcosa che li lega e in questa empatia lui vedeva la base, la cellula fondamentale del sistema sanitario. Magari fosse sempre vista così le cose, perché in realtà rispetto a questo contatto diretto, perché è un contatto tra uno che sta male e l'altro che gli risolve un problema, questo è il punto. Tutto il resto, diceva Arrigò, e lui faceva la battuta, ce lo mette il diavolo, diceva, no? Tutto il resto. Tutto il resto cos'è in gran parte? Non è la tecnologia che comunque è al servizio del medico, è la burocrazia. Cioè che deve essere, che non è che non serva, certo che serve un'organizzazione moderna, però deve essere ponderata ai fini di questo rapporto. Io non voglio aggiungere altro perché è un tema veramente decisivo su cui bisognerà pensare di rifondare questo sistema sanitario, più efficiente, meno costoso, tutto quello che volete, ma non può non essere ripensato in questa chiave artigoiana. E non pensate che quello che dico sia condiviso da tutti, non lo è. Io a un certo punto, poi so che anche là, comunque siamo, ci sarà anche Teresa, ve lo dico prima perché mi sarebbe piaciuto veramente, ma devo votare al Galvani perché oggi pomeriggio si vota i consigli di classe. Mi hanno detto mia figlia e mia moglie che non posso non andare a votare alle 5:30. Però vi seguo e comunque ci siamo un po' divisi i ruoli con Lalla e con Teresa, che è la nostra tutor, che tra l'altro, dove è Teresa? È alta però delle volte non si vede e sta scrivendo in questa fase proprio una delle ricerche che quindi è molto interessata a seguire direttamente. La mia presenza, devo dire la verità, è del tutto inutile, nel senso che ormai Moruzzi ha tranquillamente impostato il tema. Io mi limito a fare un gioco con voi e poi a dire due parole. Chi di voi è un medico? Voi due no? Bene. In questa sala i medici sono in minoranza. C'è anche un veterinario. Vai bene anche tu, vai bene anche tu, almeno per me Gattara quasi fissata, vai benissimo. In questa situazione è possibile che si apra un dialogo non del tutto dispari fra medici e pazienti. Perché normalmente, siccome abbiamo a che fare con corpi malati, menti che si ammalano, paure, timori, eccetera, il rapporto spesso fra medico e paziente, che abbiamo anche cercato di chiamare utente, peggiorando ulteriormente l'immaginario collettivo. Ci sono anche altri, no? Altri modi. No, ecco, esatto, peggiorando, sì, è vero, ci sono anche altri, questo era peggiorare ulteriormente l'immaginario collettivo, forse anche una situazione come questa, che è una situazione pari, avete visto lui mi ha detto tutti in cerchio, può portare a un dialogo che abbia un suo senso. Dico io da allieva di Arrigò e da persona che nella vita ha avuto bisogno dei medici, avendo una stigmate, io sono figlia di un medico di base, che era anche pediatra, stigmate qual era? Che un tempo il termine dell'empatia, o come dice Masotti, della simpatia, era un ovvio, ci aveva da essere. Non esisteva medico di base che non sapesse che questo era obbligatorio. Anche se avevano 3.500 iscritti sparsi nelle campagne e li andavano a prendere col biroccio, il tema della relazione era un tema chiave. Forse era un tema... Posso permettermi di... Vai, no, è tu. Solo un attimo, non è un caso, se vi ricordate, che cioè io ho 31 anni che faccio il medico di base. Non si vede. E sono vecchio, ho 63 anni. Quindi. Il discorso è questo, che una volta si chiamava medico di famiglia. Esattamente. E non è un caso che allora, quando io ho iniziato, scusa se ti ho interrotto, non ti preoccupare. Ho iniziato ed ero alle prime armi, quindi chiaramente avevo le mie paure, avevo tutto, non sapevo magari fare una ricetta, però ho avuto la possibilità di entrare dentro le famiglie. E Duturenna. Io ero al Duturei, al Dutturau, adesso al Dutturau. Però cominciavano così. Quando io ero piccola, mio babbo era ancora Edutturen perché era giovane. Dopo è diventato il nostro Dutour. Io sono romagnola, quindi scusate l'accento diverso. Però il tema era, almeno per il medico di base, assolutamente ovvio. L'altro ovvio relazionale era che, essendoci meno specializzazione, essendoci meno distanza, essendoci meno burocrazia, che forse addirittura si sfiorava il pasticcio nelle relazioni, anche la relazione fra i medici era un po' meno burocratica, un po' più familiare. Non con tutti, ma insomma c'era un giro di familiarità, di conoscenza. Ora noi siamo a livelli di specializzazione straordinariamente superiori. Le nostre vite sono più sicure, il nostro umore è peggiore. Diciamo la verità, il nostro umore è peggiore un po' per deficit di organizzazione della macchina, un po' perché aver perso quel titolo, il medico di famiglia, e anche la possibilità di una scelta non economicamente drammatica del medico di secondo livello, no? Per cui insomma, se hai dei soldi te lo scegli, se no aspetti e speri. Tu hai delle caratteristiche della relazione che ha da un lato un bisogno di continuità, dall'altro un bisogno di intermediazione, dall'altro ancora la capacità anche in luoghi come l'ospedale di un atteggiamento positivo, accogliente, che riguarda i medici ma riguarda anche tutto il resto del personale. In più, consentitemi, io faccio anche un altro mestiere, sono presidente di un'associazione che si chiama Carer e si occupa di persone che si prendono cura di altre persone in condizioni di grave difficoltà, fragilità e disabilità, e beh, anche con le famiglie, l'accidente lì del medico di famiglia, anche dentro l'ospedale adesso, anche nelle strutture, giuro che non ho letto le sue cose, e anche nelle strutture poi di accompagnamento, noi abbiamo bisogno di soggettività capaci di interloquire pazientemente. Non di dire io sono bravo, che è vero molte volte, c'è gente bravissima in giro per i nostri ospedali e nelle nostre strutture, ma di dire anche sono bravo ma so stare anche un po' dalla tua parte, ti so ascoltare, so essere paziente. La burocrazia è impaziente e rende spesso, mette spesso i medici in condizioni di altrettanta impazienza. La chiamo così per usare un termine eufemistico. Sì, un po' familiare, no? Ti innervosisce la struttura. Allora, questa è una cosa partecipata, ho capito dalla mia, sì. Non so, ci siamo parlati, ma faccio, io sono facilitatrice di professione, quindi ho visto il cerchio, ho capito. Io mi fermo qui, come Mauro ha un problema parentale, io faccio la nonna, lui fa il babbo, io devo andare a badare mia nipote nel momento in cui mia figlia, andrà invece in una cosa di classe dove anche loro devono fare qualcosa, non so cosa. Quindi io alle 6:15 scappo per motivi parentali. Tu via. Grazie. No, io intanto mi scuso per aver rimandato questo appuntamento perché avevo dei problemi io e quindi ho dovuto rimandarlo. Poi ringrazio Mauro e chi mi ha invitato, insomma, a questo incontro. Ringrazio i colleghi che sono venuti e che parleranno sicuramente anche meglio di me per certi aspetti. io faccio un lavoro di solito in cui il rapporto principale col paziente, cioè col paziente che dorme, quindi abbastanza tranquillo. Però devo dire che il mio rapporto col paziente avviene prima e dopo con i familiari, quindi è molto importante. Il rapporto con il paziente per il medico è una cosa fondamentale, che negli ultimi anni, appunto diceva, è cambiato moltissimo. Io vorrei impostare questo incontro appunto non tanto come una lezione, perché almeno io non mi sento certo quello che può dare lezioni di questo genere, però proprio come uno scambio di opinioni. Forse manca nella nostra sanità un momento di scambio di opinioni tra i medici e i pazienti che non sia quello del momento formale della visita, ecco, forse perché non c'è tempo, forse perché anche l'università secondo me non ha la possibilità di istruire i giovani medici in alcune discipline che sono diventate importanti. Forse riguardano più la sociologia, la psicologia, però manca un insegnamento, cioè i giovani medici oggi si trovano ma anche noi poi, quando ci siamo laureati, ci siamo trovati ad affrontare la nostra professione nei riguardi dei pazienti con così una preparazione che era più un'improvvisazione personale sulla base di quello che uno è, come sa parlare con le persone, come sa ascoltare. Solo che negli anni è cambiato, forse anche bene, e dovrà cambiare ancora, è cambiato il rapporto tra il medico e il paziente, perché ovviamente una volta il medico era un'autorità, quindi c'era un rapporto di tipo gerarchico, paternalistico, per cui quello che diceva il dottore. Oggi invece è un rapporto più di tipo contrattuale, quindi il paziente deve essere più informato, deve accettare quello che si fa. Io ho così sviluppato alcuni pensieri, ho fatto qualche appunto, magari non ci arrivo in fondo, magari poi dopo vi posso dare questa cosa. Io volevo partire facendovi vedere due brevi filmatini che ho preso da YouTube, magari adesso giro il PC se riuscite a vedere, perché sono molto molto indicativi di come, secondo me, se lo metti lì lo vediamo questo, sì, di come può essere la comunicazione. Adesso vediamo, se lo sentiamo solo che succede? Va bene lo stesso. Abbiamo uno dei canali comunicativi che è il visivo. Ma va bene lo stesso. Abbiamo l'uditivo ma perdiamo il visivo. Quindi adesso poi vediamo se riesco ad aprirlo. Non verbale. Ah, ci picchia. Sono anche psicologo, per quello che cerco di stare molto attento a queste cose. Ed era proprio poi parte bene, no? Come se no vi darò, ve li manderò e poi... No, ci mancherebbe, non volevo essere... Io avevo... Volevo essere supponente. Proprio perché, per non fare una lezione, ma per stimolare un po'. Stai cercando YouTube in linea? No, li ho scaricati, sto cercando di aprirli, ma... Non mi si apre. Se sono su YouTube basta che ci dia l'indirizzo. C'è molta roba su questo argomento, alcuna forse inutile, ma questi due erano carini. Adesso volevo dire, ho cercato di mettere insieme un po' di materiale che possa essere così motivo, argomento. Questo di, lo caricheremo di discussione. È sul sito. Bene. Erano due filmatini in cui c'erano due modi di approcciarsi al paziente dei medici che devono dare informazione. Per me era molto così significativo, intanto per così buttar lì un sasso e agitare un po' la discussione. Peraltro ho così guardato altre cose che vi voglio proporre. Nell'ultimo bollettino dell'ordine c'è un editoriale del nostro redattore che è Alessandro Nobili, che ha scritto una cosa che vi vorrei leggere, che contiene molti degli elementi che sono stati detti e che sono poi gli elementi che magari vedremo di sviluppare. Ecco, vi leggo, comunque il bollettino dell'ordine, anche questo lo trovate sul sito dell'ordine, qui è scaricabile, il PDF, tutti lo possono trovare, comunque è una pagina e mezzo. Alessandro Nobili scrive: negli ultimi tempi i media si sono occupati ripetutamente della tendenza da parte di molti connazionali ad utilizzare la medicina omeopatica o più in generale alternativa rispetto alla medicina cosiddetta ufficiale. Hanno fatto da catalizzatore alcuni episodi di cronaca, tra cui recentemente quello dello sfortunato bambino deceduto per le complicanze di un'otite curata, per così dire, con farmaci alternativi invece che con antibiotici. Anche Massimo Gramellini, da un po' di tempo editorialista del Corriere della Sera, ha voluto dire la sua. Anche se fosse solo acqua fresca, scriveva Gramellini, resta da capire perché decine di milioni di europei si abbeverino all'omeopatia. La diffusione delle cure alternative segnala un disagio che la scienza ufficiale sbaglia a sottovalutare. Non è sfiducia verso la medicina, ma verso certi medici. Negli ultimi decenni l'omeopatia ha riempito il vuoto lasciato dal medico di famiglia, un po' dottore, un po' confessore. Quello che cominciava la visita chiedendo come va, e uno partiva dal pretesto del mal di schiena per rovesciargli addosso la sua vita. Oggi molti dottori allopatici, non tutti, conoscono meglio le malattie che i malati. Seguono protocolli scientificamente testati, ma senza personalizzarli, come se ogni paziente fosse uguale agli altri o a se stesso del mese prima. Soprattutto ascoltano poco, guardano gli esami e le radiografie, ma spesso non il malato. Questo scriveva Gramellini. Nobili continua: caro Gramellini, credo che quello che dici abbia senso e da attento e acuto osservatore della società lo hai ben colto. Quello che non hai colto, tuttavia, o quantomeno non hai nemmeno accennato, forse per mancanza di spazio, sono i motivi per cui sta succedendo questo. Da quando la scienza è diventata una religione, prosegue Gramellini nell'editoriale, certi medici si rifiutano di esserne i parroci. Qualche volta dimenticano che non stanno curando numeri, ma persone che hanno accettato la disumanizzazione dei rapporti un po' ovunque, alla posta, in banca, nei negozi, però non in ospedale. Quando stanno male, prima che curate, pretendono di essere ascoltate, e l'ascolto non è acqua fresca. Invece, continua Nobili, focalizzare l'attenzione su di un problema senza approfondire le cause lascia al lettore la discrezionalità di attribuire quelle cause. Ed impostato in questo modo, il tuo scritto induce a pensare che la causa del problema siano i medici, magari non tutti, ma comunque molti medici. Se io non fossi un umile corsivista di un bollettino a tiratura locale e tu non fossi uno degli editorialisti di punta del più grande quotidiano italiano, mi permetterei di invitarti a leggere alcuni degli editoriali pubblicati su questo giornale dei mesi scorsi. In uno si rilevava come i medici di famiglia siano ormai costretti, in ragione della cosiddetta appropriatezza prescrittiva, a prescrivere non quello che in realtà una lunga conoscenza anche psicologica del paziente li porterebbe a fare, bensì solo e soltanto quanto previsto dai protocolli ministeriali per quel tipo di malattia e non per quel malato. E i medici che sgarrano rischiano la sanzione o quantomeno l'umiliazione del confessionale. Poi magari Massimo vi spiega che cos'è il confessionale. In un altro pezzo leggeresti che in questo sistema sanitario c'è una cosa che pare non rivestire alcun valore: le parole. E sarebbe da tempo ora di riconoscere ai medici un corrispettivo o un incentivo per il tempo speso a parlare con i malati, dal momento che i DRG, che è il sistema di valutazione delle prestazioni sanitarie, e di resoconti aziendali tengono conto solo delle prestazioni effettuate, non del tempo che si impiega a fornirle. Ancora avreste avuto modo di leggere che con l'istituzione della tanto strombazzata legge Gelli sulla responsabilità medica è nato un nuovo tipo di specialista, per così dire trasversale a tutte le specializzazioni mediche, che è lo specialista in burocrazia, a cui solo si richiede, pretendendolo, di attenersi alle linee guida, per soddisfare le quali serve guardare gli esami e le radiografie piuttosto che conoscere lo stato d'animo e le aspettative del malato. Alla faccia di quella persona che, per dirle con parole tue, avrebbe invece voglia matta di raccontare quello che mangia, che teme o che sogna. Quindi in quest'articolo secondo me ci sono un po' tutti i temi che riguardano il rapporto medico-paziente accennati, magari vediamo di tirarne fuori qualcuno. Ecco. Il rapporto in passato, una volta si diceva che cura più il bravo medico che la medicina. Ecco, forse può essere vero anche oggi, ma poco, anche perché oggi, come già diceva la Lalla, mentre una volta c'era un medico unico che teneva le fila, oggi la medicina si è sfrangiata, sviluppata in tante specializzazioni e anche in tante super specializzazioni che da un lato hanno portato sia ad accrescere la conoscenza e il trattamento di quel pezzo di cure, però si perde l'unitarietà del paziente, del malato. E questo sicuramente non favorisce poi nei medici che trattano le malattie o quel particolare tipo di malattia, lo sviluppo di un sentimento, di una psicologia, perché in fondo io medico sono super specialista, mi focalizzo su quella piccola parte, so tutto, dirò tutto, farò tutto su quella parte, poi ci sarà qualcuno, non si sa chi dovrà eventualmente ricostruire un po' il malato, ricostruire la fiducia del malato. Poi un altro aspetto importante è quello che oggi la divulgazione medica, cioè oggi c'è una diffusione tale delle conoscenze mediche, delle conoscenze scientifiche che dipendono da alcuni anni dai mass media, televisione, radio. Poi ci sono più recentemente anche la rete, anche internet. Tutte queste situazioni hanno degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Certo, l'aspetto negativo è che il paziente che vede la trasmissione televisiva, che sente parlare il super specialista di una cosa, di una terapia nuova che magari è solo a livello sperimentale, però siccome l'ha detto la televisione, poi pretende di avere quel tipo di terapia, di trattamento, senza magari capire se quella cosa è applicabile, se è eseguibile, se è effettuabile. Peraltro perde anche un po' di fiducia nei confronti del medico. Voglio dire però che comunque l'informazione sanitaria è però importante, perché il paziente, la persona che conosce quali sono le malattie, quali sono le possibilità terapeutiche, soprattutto quali possono essere i mezzi di prevenzione delle malattie, i comportamenti più adeguati, è un paziente che sicuramente aderisce meglio alle cure, che si fa portatore di una psicologia più incline alla conoscenza, più incline alla salvaguardia della sua salute. E io qui avevo riportato, ma poi non vi voglio annoiare, delle interviste fatte in un'indagine che è stata fatta a Parma, in cui sono stati indagati diversi medici di ospedale, di famiglia, rispetto a quello che era il loro vissuto nei confronti dei pazienti. C'erano un paio di interviste che fondamentalmente riportano questo, cioè il paziente sente per televisione la tal cosa, poi va dal medico e dice: ah, ma come? Lei non lo fa, lei non me lo propone, le cellule staminali per il muscolo cardiaco dopo l'infarto, sembra che, però lo fanno nei topi attualmente, no? Magari quel da considerare che tante volte quei medici che vanno in televisione a raccontare queste cose lo fanno più per farsi pubblicità, però siccome sono in televisione assumono agli occhi del paziente un aspetto è come, lei non lo fa. Paziente, dicevamo, paziente utente, Cavicchi dice esigente, perché nel Cavicchi è fotologo. Forse è una maniera esagerata, però sì. In certi casi, cioè io ho visto questa cosa, ho letto questa cosa, vorrei questa cosa, per non parlare poi di quello che si trova in rete, che un paziente, oggi una persona che ha dei sintomi, cosa fa? Prima di andare dal medico va a guardare su internet, va a vedere quei sintomi che ha lui, a cosa corrispondono, magari si fa un'autodiagnosi, poi va a cercare terapie, oppure se ha avuto un intervento chirurgico va a cercare, ci sono dei blog, io ne ho trovati anche per le patologie di cui mi occupo, che se uno va a leggere questi blog dove sono, a volte ci sono pazienti che si lamentano, magari sono sempre gli stessi, si lamentano magari per delle complicanze, non per un esito normale, però tutto questo cosa fa? Non fa altro che accrescere l'ansia, la tensione del paziente che ha un certo problema, che quando va dal medico è proprio nella condizione peggiore, perché o non si fida, ha dell'ansia, ha delle aspettative, anche se voglio dire, però ci sarebbe anche l'aspetto positivo, perché la maggior conoscenza aumenta la propria capacità di curarsi, così come anche la rete è fondamentale. Oggi io mi sono fatto firmare da Mauro il suo nuovo libro, perché credo che la messa in rete di dati sanitari sia un mezzo utile sia per il cittadino, chiamiamolo così, l'utente, sia per il medico, per avere una traccia della propria storia. Adesso poi questo è un discorso che ha tanti problemi di tipo tecnico e burocratico che rendono difficile, perché ci sono gli aspetti della privacy, ci sono problemi di reti e di sistemi che ancora a volte non parlano tra di loro, però è un mezzo che potrebbe essere a disposizione del medico e del paziente, proprio per migliorare la qualità delle cure, la velocità delle cure. Posso, scusami, Massimo, sì, scusa, interrompimi pure. Posso interromperti un attimo, sono d'accordissimo su questo. Però vi dico una cosa, ultimamente, e spero che Moruzzi non mi gambizzi, il discorso del fascicolo sanitario è una cosa meravigliosa, bellissima. Però c'è un piccolo problema, che i pazienti non vengono più in studio, ti chiamano solo dicendo lei mi fa questa cosa, io la scarico, per cui non... Quindi, un po' quello che dicevo, bellissimo questa grande informazione, tutti sappiamo tutto, così. C'è il problema che se noi parliamo di rapporto medico-paziente, che è come quello che diciamo, che prima di tutto, o come dicevo alla signora, quando entro in ambulatorio io guardo il mio paziente, lo guardo come si siede, come si va, quindi io stesso come mi metto nei suoi confronti, quindi creare un rapporto di fiducia, fascicolo elettronico, il rapporto è finito. No, questo dal punto di vista di... solo una bella visita programmata, attenzione, quindi vi dico perché sto parlando in termini proprio scusate, una battuta sola, perché il 16 di novembre faremo sul fascicolo una discussione, abbiamo invitato Mazzini, che ha chiesto anche la presenza dell'assessore che è legato, quindi avremo una lezione interamente dedicata al fascicolo. Non è il fascicolo che crea questo, è l'attuale gestione. Sì, io è quello che ce l'ho detto, in teoria va benissimo, però attualmente è la gestione. Io potrei dire il fascicolo sente elettronico, noi tra l'altro l'abbiamo costruito qui, certo. Qui siamo nella scuola di Achille Rigol, lui fece la prima riunione su questo. Io lo dico sempre perché fu una riunione che riuscimmo malissimo, il fascicolo del cittadino, ma voi siete malati, non rompeteci le scatole. Cioè. Poi è diventata una cosa europea, noi abbiamo visto come funziona in Austria, dove hanno un ottimo fascicolo, in Svezia dove hanno un altro, sono venuti qua i svedesi, cioè, allora c'è un... cioè noi c'è stata una deformazione Excel, sapete Excel, no? Cos'è? Del fascicolo, tant'è vero che su 4 milioni, io non so quanti sono i pazienti del dottore, però sono 200.000 che lo usano, che è ridicolo, su 4 milioni e 400 mila, e tra l'altro su 4 milioni che hanno dato il consenso per l'uso dei dati, quindi mandano al medico però non lo usano direttamente, eccetera. Quindi è questa deformazione e questa paura della burocrazia verso il fascicolo, paura. Io lo dico sempre, gli 11 direttori generali dell'Emilia Romagna hanno cominciato a smettermi di salutarmi quando è arrivato il fascicolo, perché come tu mi metti la trasparenza, si può andare a vedere, mi fanno causa legale. Allora, si è stabilito un meccanismo di reazione che però non voglio adesso, perché i temi posti dai medici sono... Dedicheremo una seduta apposta il 16 novembre. Teniamo che anch'io sono d'accordo che sia. Scusa, voleva questa aspettiamo. C'era la signora. Beh, non ho le autogestite. Sì. Scusate. Sì. Sta parlando medico. E io non è che posso agire direttamente, agire direttamente sul fascicolo, fare una diagnosi, magari un interventino, poi chiedere. No, cioè dovrò prima avere una, dovrò avere un incontro con il mio medico di famiglia che mi prescrive. Da un lato sì, dall'altro non è sempre così, perché per esempio vai dallo specialista, esatto. Lo specialista ti dice prendi, prendi questo oppure fatto questo. A me per esempio sono di stamattina, in ambulatorio, mi hanno detto in seguito all'intervento, cioè mi ha prescritto questo e questo, se me lo scrive io lo scarico direttamente. Sì, al posto del farmacista lo fa il fascicolo, perché voi cioè, sapete che se mette un fascicolo... Però di solito è vero che ci dovrebbe essere, ma è quello, secondo me, è un po' quello che diceva Maurizio. Ha chiesto di intervenire, scusate, vi interrompo, se no... Ho dovuto fare la fila dal medico per il fascicolo, se c'è il fascicolo solitario ne avevo bisogno. Comunque volevo dire un'altra cosa, io ho letto che c'era questa riunione oggi, sì. Io ho avuto l'occasione di mettere in ordine un volume di 200 pagine sul rapporto medico-paziente, è vero, e non ho cambiato niente di quello che aveva scritto, ma l'ho messo in ordine e quindi mi sono fatto una cultura su questo argomento che non ho potuto sfruttare fino adesso, ma ho detto, ma che bello che c'è. Allora ce lo deve dare questo lavoro. Ce lo venga lei da questa parte. Dalla Luzzi, è vero, dove ci sono delle cose che sono utili. È vero, ma ci sono anche delle cose da discutere, ma va da discutere molto, molto forte. Perché? Perché la vita, il rapporto con il paziente è completamente cambiato. No? Su questo, ma non solo perché ci sono dei sani che vengono dal medico, è vero, perché ci sono tante situazioni nuove che si sono venute a creare. È vero, e io ho fatto il medico di medicina generale in principio del 60, 61, 62, 63. Ho fatto il medico ospedaliero, ho fatto l'anestesista, ho fatto il direttore sanitario. Ho fatto l'altro direttore sanitario, sono il pensionato e ho fatto anche il malato. E a proposito del fascicolo sanitario, se ho dovuto fare un'ora di fila per farmi fare la ricetta, che poteva benissimo arrivare sul fascicolo sanitario. Il mio dottore ha detto, ma è un po' difficile perché non sono pratico, eccetera, eccetera. Quindi vedete quante cose che ci sono a questo livello. Ma io mi sono fatto l'esperienza di questo tipo e ricordatevi che è cambiato, cioè ricordatevi che è cambiato tutto, come ha detto giustamente Mia, è vero, perché? Perché adesso la gente va dal medico e il medico non riesce a guarirlo, perché ha delle patologie, parli tutti campano fino a 90 anni, 100 anni, 110 anni e quindi ci sono tutte queste condizioni nuove, è vero, perché prima 60 anni neanche dal medico, ho avuto una riunione sull'argomento che in Sicilia andavano dal medico, ma lo scrive un grosso autore siciliano, andavano dal medico, ma chiamavano il medico quando uno stava per morire, non prima, e poi non prendevano neanche le cure, quindi ci sono tante novità su questo argomento, non solo del libro che ho curato io, che comunque è un libro della Mario Luzzi, eccetera, però non è molto importante. Lei come si chiama, signore? Caroli. Caroli, dottor Caroli. Dottor Caroli. Possiamo anche prendere in considerazione poi di presentare il libro e di fare un negozio. Sì, credo che un seminario di due ore, l'argomento è talmente vasto che... Poi io una battuta... Volevo fare una battuta sulla rete, ho visto una vignettina che mi è arrivata proprio oggi, cartello esposto nell'ambulatorio del medico, che ho scritto: i pazienti che si sono fatti la diagnosi su Google e vogliono un secondo parere, invece di venire dal medico guardino su Yahoo. È proprio bellissima la... Quindi sì, oggi... Il paziente è anche molto cambiato, sì. Perché non è più il paziente di una volta. Certo. Il paziente oggi, anche per il progresso della medicina, anche per che ha generato specializzazioni. Le specializzazioni cosa hanno generato? Una maggiore cronicità. Il paziente oggi, in grandissima parte, è un paziente cronico, che purtroppo non ha più bisogno del medico di medicina generale, ha bisogno dello specialista. Cioè, io conosco diversi ambiti, il paziente, io dico sempre, l'ho già detto, per cui dico, si ripete sempre, comunque io basico l'ambiente delle nefrologie, per cui dializzati e trapiantati. Dializzati e trapiantati non hanno bisogno del medico di medicina generale, purtroppo. Io, guardi, ho fatto una lunga trafila, a medico di medicina generale non ci vado mai. Ma perché? Non perché mi è antipatico, ma perché non mi serve. Allora, forse bisogna tener conto. Allora, questa è una situazione che è cambiata e credo che non ci sia niente da fare. Cioè non si può pensare di tornare indietro, bisogna trovare gli strumenti nuovi. Quello che diciamo oggi, il fascicolo sanitario sicuramente si è impiegato bene, in modo corretto, bisogna informare anche, in modo giusto. Può essere un aiuto di questo tipo qui. Ci deve essere una grossa relazione, non di sospetto e di... come antinomia fra i medici di medicina generale e gli specialisti. Ci deve essere una collaborazione per forza di cose. Il problema è anche che il medico di medicina generale è un medico privato. No, con tutti. No. Non è più così. Non è privato già, già dal 78. Se le dico cosa prendo, io dico al mio paziente, se le dico cosa prendo al mese del mio paziente, sinceramente, se devo dire. Non si sente offeso dalla mia. No, ma non è. Non mi so, guardi, assolutamente. Vorrei riprendere in mano la. Non è privato. Scusate, io vi interrompo io adesso. Allora, volevo finire. Non è così. Allora, volevo finire la mia introduzione, poi dopo magari parla il collega Masotti e parla il professor Binelli. Intanto il ragionamento che volevo fare è un ragionamento ampio che non riguarda solo il medico di famiglia. Qui infatti c'è un medico di famiglia, un chirurgo generale e uno specialista in cardiologia. Quindi il ragionamento è un ragionamento ampio, certo. È vero che per certe cose magari il medico di famiglia serve di meno, serve di più lo specialista, però voglio dire anche lo specialista ha il rapporto diretto con il paziente. Io volevo considerare un po' tutti questi aspetti, non limitarmi al medico di famiglia e paziente, quello è uno dei... Volevo citarvi altri due temi da discutere e poi così da riflettere, poi dopo magari cedo la parola e mi sto zitto. Oggi c'è un problema importante che è quello del consenso informato, cioè un problema che una volta era meno preminente, oggi è un problema che è molto importante e molto veniente, perché dal punto di vista della magistratura è necessario, quando si compie un atto medico o un atto diagnostico invasivo, è necessario che il paziente sia informato esattamente di quello che deve fare, delle eventuali complicanze che possono esserci e deve dare un consenso esplicito. E tante volte il consenso esplicito non può essere dato se non si compilano o non si danno da leggere al paziente 6 fogli, 7 fogli da leggere attentamente, che tante volte il paziente non riesce neanche a capire, e quindi bisogna spiegarglielo, bisogna perdere il tempo, le parole che citava il collega. Poi c'è il problema, vado veloce, anche dell'informazione della malattia, sulla malattia oncologica. Cioè oggi il problema se informare il paziente o i familiari è un problema molto pressante. Una volta, anche questo si potrebbe fare un convegno solo su questo, una volta il medico tendeva, almeno nella cultura nostra latina, insomma, tendeva a proteggere il paziente, magari confrontandosi con i familiari sul cosa dire, cosa non dire, dare delle mezze verità, raccontare un pezzettino alla volta, la malattia è stata estirpata, però nel mondo anglosassone già da anni questo sistema non andava bene, non va bene, e il medico ex abrupto dice lei ha questo. Ecco, questi sono due modi che però sono due facce della stessa medaglia. Questo cosa vuol dire? Cioè vuol dire che il medico in qualche modo o non te lo dice, il medico e i familiari te lo vogliono dire, oppure te lo dice ex abrupto, così tu sono fatti tuoi, cioè vuol dire, siccome oggi è tutto burocratico, siccome se io non ti dico le cose, tu dopo mi accusi che non ti ho spiegato bene, se succede la complicanza tu mi accusi che non te l'ho spiegato, e allora io te lo dico, però tutto questo alla fine qual è la conseguenza? Che il medico non ha più quella funzione di accompagnamento, di condivisione del percorso che secondo me dovrebbe essere il compito del medico, a prescindere dalla prognosi, a prescindere dalla malattia, a prescindere anche dal tipo di specialità. È chiaro che purtroppo manca il tempo per le parole, perché la burocratizzazione oramai, gli impegni che devi assolvere, sia per scrivere le ricette, sia per fare adesso. Io al Sant'Orso ho un programma nuovo che servirebbe a... Il medico dovrebbe refertare su quel programma, fare le ricette, prenotare gli esami, va benissimo, ma è talmente complicato che per ogni paziente perdi più tempo a scrivere e compilare il programma che a visitarlo. E però d'altra parte hai la burocrazia che ti impone di fare tot visite e i pazienti fuori aspettano. Un altro pensiero che volevo fare brevemente è che c'è bisogno, proprio perché sono cambiate le situazioni, c'è bisogno sì di un medico che cambi, ma c'è bisogno anche di un paziente che cambi. Io appunto ci tengo molto a parlare, scusate vi ho interrotto, però magari la discussione la facciamo, proprio perché ci vuole una nuova cultura, sia da parte del medico che ha bisogno di, forse già dall'università, di essere formato in maniera diversa, sia da parte del paziente e da parte della burocrazia, di chi si comanda, perché avevo scritto delle cose che ho tratto da un libro, comunque ve le lascerò, però qui vado a quello che è il rapporto con l'azienda sanitaria. In fondo oggi il rapporto del medico di famiglia, del medico specialista, del medico ospedaliero è fortemente condizionato da quello che è l'organizzazione sanitaria attuale. Adesso questo bisogna dirlo, ciao caro, bisogna dirlo, perché oggi tutto quello che viene fatto è in funzione della spesa, delle risorse, perché bisogna risparmiare. Io vorrei però andare a vedere poi i risparmi, come vengono fatti, come vengono gestiti, se poi da qualche parte non si spende in maniera inappropriata. Però questo è un limite importante all'operato del medico nel venire incontro alle richieste del paziente, perché diciamo la verità, le linee guida sì servono, ma sembra che vogliano spostare il rapporto del paziente con il medico verso una spersonalizzazione di quello che devi fare. Quindi, siccome la linea guida dice così, tu fai questo. Siccome io faccio un decreto con queste linee guida, poi queste linee guida le può mettere in atto chiunque, a prescindere dal tipo di formazione o di professione che abbia. E questo poi rientra anche nel discorso, che è anche lungo, anche questo, sul chi fa cosa. Cioè, allora, se c'è questa linea guida che di fronte a questi sintomi devi fare queste cose, non c'è più bisogno del medico. Possiamo prendere una figura sanitaria che costa meno, ma che mette in pratica tutto. Però tutto il discorso del rapporto tra il medico e il paziente, che è un rapporto sia di conoscenza, sia di empatia, ma anche di esperienza personale, oltre che di bagaglio culturale degli studi, non è uguale. Cioè, il sistema sanitario pubblico attuale, chi lo comanda, le aziende, vogliono far passare un messaggio di questo tipo: tu hai questo problema, intanto questo problema andrebbe diagnosticato, vabbè, però tu fai 2-3 esami, ti incasello così, ti faccio questo, ti faccio quell'altro. Lo può fare un impiegato che ti guarda, e questa è un po' la tendenza, la critica grossa che abbiamo fatto sull'organizzazione di alcune cose, tipo le case della salute, che sono una bella cosa, che ci piace molto come idea, però i decreti che sono un po' scarsi, e li configurano così, come degli sportelli burocratici, dove uno va lì, tanto per dire. Quindi, così come, scusate, i protocolli infermieristici del 118. Cioè, no, qui si nega assolutamente la validità dell'atto medico, si vuole spostare quello che è l'atto medico su un atto sanitario a specifico, come se tutti potessero fare tutto, che non è vero. A parte che, voglio dire, è finito il tempo della lotta di classe, quando i figli dei poveri facevano i portantini o gli infermieri e i figli dei ricchi, i medici erano solo i figli dei ricchi, che non è vero, perché oggi la differenza è: tu vuoi studiare 6 anni più 5 di specialità e farai il medico. Non hai voglia di fare questo, quindi ti iscrivi a una facoltà che dura 3 anni, farai un'altra cosa, però non farai la valutazione dei pazienti, soprattutto quelli gravi, soprattutto in emergenza, anche perché lascia pure le linee guida, lascia pure l'evidence-based medicine e tutta la letteratura scientifica, però l'esperienza del medico, il medico se la fa sulla sua pelle negli anni in cui lavora. Sulla pelle dei pazienti. Ed è quella che poi ti permette di capire, solo quando vedi entrare un paziente, da come si muove, da come cammina, da come ti guarda, già hai capito il 50%, così anche, soprattutto quando sei in una situazione di emergenza. E per concludere, tutte queste cose il servizio sanitario le vuole annullare, no? Le vuole ridurre ad un atto meccanico che potrebbe fare chiunque, senza parlare poi anche qui, un altro capitolo che sarebbe da dire, di quelle che sono le altre professioni non sanitarie. Ricordiamoci che c'è tanti atti medici o sanitari che vengono fatti anche da altre professioni, le diete che vengono prescritte dai biologi, la fisioterapia che viene fatta dai specialisti, dai laureati in scienze motorie o dai fisioterapisti, senza un'indicazione, poi tutte le varie pranoterapie, gli osteopati, gli ottici che prescrivono gli occhiali, c'era sul Carlino qualche giorno fa, insomma, qualcosa proprio sul tema. Per cui è tutto questo che va ovviamente a scapito della salute dei pazienti, e noi medici vorremmo un po' riappropriarci di questo, che è la diagnosi, la terapia del paziente, che passa proprio dal rapporto che possiamo avere, che dobbiamo migliorare con i pazienti. Adesso mi fermo qui e cedo la parola. Scusa un attimo, io fra poco me ne vado, volevo dire una cattiveria, posso? Me lo consentite? La cattiveria è questa. È vero che c'è questa gigantesca coperta burocratica che stringe e che ha portato a far sì che le decisioni che hanno un ambito fortemente di competenza sanitaria, e io dico anche sociale sanitaria perché ce n'è anche di questa, siano state in qualche modo filtrate da quello che io chiamo la rete della burocrazia, che produce distorsione oggettiva, non è cattiveria, è così, ormai gli studi lo dicono con chiarezza. Però la mia domanda è questa, lo faccio perché adesso prenderà la parola il medico di base. Quanti medici si sono seduti comodamente in questo, in questa poltrona? Perché vedete, parlo da paziente, è difficile trovare un medico che viene a vedere tua nipote a casa anche se ha la febbre 40. È difficile trovare un medico che viene da te che hai avuto un terribile incidente e puoi anche andarci, ma ti costa una fatica bestiale. Voi sapete che negli ambulatori dei pediatri ci sono bambini lì con 40 di febbre, lo sapete, no? Con la scarlattina, il morbillo, cose varie. Allora, qual è il patto che bisogna riscrivere? Perché io capisco che la burocrazia è stato l'inizio di questo disastrone. Però che passi facciamo perché succeda di che sia possibile che la relazione sia autentica? Perché forse delle linee guida ve le dovete dare voi. Questo è quello che io succonamente penso. Io credo, no, fra un quarto d'ora devo andare via. Perdonatemi. No, assolutamente, hai aperto una cosa perché, allora, in questo senso posso dire... Perché è bello parlare del rapporto, è bello parlare della cosa, allora intanto il medico, questo sappiamo tutti, dovrebbe saper ascoltare, sapere restare neutro senza mettere delle cose e comunque saper comunicare, che intanto bisogna vedere cosa vuol dire saper comunicare, quindi tante belle cose. Questo a parole è tutto bello. Io faccio una gesaccusa della categoria, in questo senso, dei medici di base, perché questa è una cosa che lo dico non perché devo fare il bello, il bravo, la cosa, però l'ho detto anche a riunioni sindacali, che quando io ho iniziato, come vi ho già detto, c'era il discorso medico di famiglia, c'era tutte queste situazioni qua. Bene. Noi abbiamo perso quello che è la nostra credibilità e il nostro potere, fra virgolette, perché potere già è una parola brutta. Diciamo l'autorevolezza si dipende, però chi non è l'autorità? No, beh, autorità, autorevolezza è tutta un'altra cosa. Magari se fosse un medico, io dopo mi sono permesso di fare un minimo di cose di come possono essere i medici, dei comportamenti dei pazienti, l'ho messo giù un po' così. Quindi diciamo l'autorevolezza, io chiamo ancora un po' potere, che per me era troppo, perché c'era il dottore, era il dio in terra, cioè tu andavi, adesso è banale, banalmente, cioè attenzione, era sbagliato prima ed è sbagliato adesso. Cioè prima, quando ho iniziato, il paziente arrivava, busta degli esami, il medico lo apriva, leggeva, certe volte non diceva neanche codice, prendi questo e questo e l'altro grazie. Adesso, al di là del fascicolo elettronico o meno, ti arriva con la busta aperta, segnata, e questo, c'ho già la diagnosi, sono andato su internet, ho fatto questo, cioè so già tutto, perché non mi dà questo? Quindi chiaramente c'è qualcosa che non va. Però, ripeto, da parte nostra abbiamo perso questo quando? Giustamente come diceva Lama. È evidente che 1500 pazienti, 1400 è tanto come ho io, non posso andare a casa di tutti. Quindi devo fare una cernita. Io non sono bravo a... cioè non faccio il didattico e tutto, quindi vi dico le cose. Ho la fortuna in questo senso, perché dopo tanti anni i pazienti li perdo, come tutti, un po' perché muoiono, un po' perché comunque non possono andare bene a tutti, no? Però in realtà, per fortuna, da tanti anni sono sempre stato su una certa cosa. ovvio che faccio una cernita, io la prima cosa che dico è: io voglio avere un rapporto di fiducia con lei, io mi spendo, se lei mi chiama valutiamo assieme. Certo che se mi chiama per un 38 e mezzo di febbre in prima giornata, io non posso venire, certo, perché anche la febbre è sintomatica. Dobbiamo, perché c'è anche adesso questa cosa che diceva prima Caroli, che dobbiamo sempre rimettere a posto tutto, non dobbiamo soffrire, non dobbiamo avere dolore, dobbiamo avere tutto subito. Questa. Certo che se mi chiama perché c'è un'urgenza, e anch'io reputo urgente, non mi interessa più se mi chiama dalle 8 alle 10 come dice la legge che devo venire in giornata, io vengo anche alla sera. Ma è vero quello che ho detto, abbiamo perso, perché la maggior parte della gente, di noi, mi metto dentro, non voglio fare le cose, non va più a casa. No, mai no. Quasi mai. Quasi mai. C'è un altro aspetto. Molto spesso abbiamo, quindi adesso io attenzione, non è che voglio fare le cose, abbiamo perso anche il fatto che molto spesso noi abbiamo smesso di visitare in ambulatorio. Io per esempio ho una cosa, io, e ve lo dico molto sinceramente, dato che non sopporto che un paziente mi venga a dire mi prova lei la pressione, io cosa faccio? La provo a tutti subito, così siamo tranquilli. Anche, no, ma a parte il fatto che ci credo, e poi le dirò anche un'altra cosa, molto sinceramente, burocraticamente io sono disastroso. Per fortuna non c'è più Moruzzo, cioè faccio fatica, perché? Perché ancora sono uno di quelli che io so solo mettere le mani sul paziente, non voglio fare, ripeto, però ho fatto questo, mi piace fare questo lavoro, poi ovvio che devo utilizzare il computer per forza, che è una grandissima cosa, grandissima, in rete ricordiamo, però io mi ricordo ancora quando non c'era, mi ricordo ancora a memoria i numeri di alcuni miei pazienti, perché entravano, non mi ricordavo. Adesso se non spingo il bottoncino, non dico che non mi ricordo il nome, però mi ricordo. Però, quindi, bellissima questa cosa, ma anche questo secondo me è una riduzione di quello che si va poi a dire, il rapporto e tutto. Prima cosa. Andiamo sulla pressione. E qui entriamo nella cosa un po' dei rapporti. Anche lì ci vuole la personalità del medico, no? Che può essere autorevole, mai autoritario, si spera. Non un'autoreferenzialità che era una volta, in questo senso. No, ma ho capito. No, visto che ho capito, No, ho capito, però, quindi voglio dire, mai autoritario, se possibile il più neutro possibile, ma siamo umani anche noi, per cui come ci deve essere questa cosa. Però ritornando alla pressione, io ho fatto questa cosa. Poi certe volte capisco che è una gran cretinata, per un motivo. Perché uno che mi arriva, io faccio ambulatorio pomeriggio dalle 3:30 alle 6:30, mi arriva alle 5 e tre quarti di corsa perché non. E mi dice, e gli dico, si mette a sedere, dico guardi, vagano sul lettino, io so già che quella pressione lì è alterata. Perché? L'ansia, arrivo tardi, aspetta. Cosa faccio? Non gliela provo? Allora, se gli vado a dire, guardi, non le provo la pressione perché lei è alterata, questo dice, ah, ma come? Me la prova sempre, stavolta non me l'ha provata? Allora cosa fai? Gliela provo. È giusto o sbagliato? Secondo me, per come sono io, sarebbe sbagliato. Però alla fine, un po' per quieto vivere. Secondo me lo dovrebbe dire a lui, non a noi. Questa. No, ma io lo dico sempre. Perché? No, lo dico, però... A parte del rapporto. Rapporto, cioè, però molto spesso le dico... Motivo, cioè, molto spesso, però, ha ragione, perfetto, ma io lo dico. Però molto spesso la persona dice, ma comunque, dottore, io però sarei più tranquillo se me la provasse. E allora a quel punto va bene così. Ma ripeto, è vero questo che dice. È vero che abbiamo smesso di molti visitare, quindi... Però dall'altra parte c'è un ambulatorio che più o meno, adesso io vado a suo appuntamento e poi ci sono le, fra virgolette, urgenze, ricette. C'ho la mia segretaria privata che pago io, quindi non me la paga l'ASL. Però ci sono 40-50 persone che girano. E allora qui dopo entriamo in quelle e che anche sono... anche questa sera per essere qui hai rimandato. Ah, io ho la sostituta che sto pagando io in ambulatorio, perché ci tenevo a venire, mi ha fatto piacere, però sto pagando io lo sostituto ambulatorio, devo andare avanti. Quindi. Allora qui ho fatto un po' di minimo cose per i pazienti, cioè, se mi permettete, ma poi dopo. No, dei medici ve la dico così. Allora il paternalistico, cioè il medico che si sente un po' il padre, quello che era una volta, sbagliatissimo. L'autoritario, non ne parliamo neanche. Ecco, l'acquiescente, che le proposte del malato, anche se inutili e assurde, vengono soddisfatte dal medico. E qui subentra un po' il discorso del se io debbo. Posso parlarne liberamente? Io faccio, ho fatto una battaglia contro il Tavor da anni che faccio una battaglia contro il Tavor senza volere fare. Ecco, perché il Tavor da questo punto di vista è una situazione che io ritengo, per come viene gestito da tutti, cioè dalla maggior parte del mondo, dottore, sa, mi sono svegliata e mi sono accorto che il mio quartino non l'avevo preso, l'ho preso dopo un quarto d'ora, dormivo. Allora le prime volte dicevo, signora scusi, a parte che il quartino non serve a niente, il Tavor ci vuole minimo 50 minuti perché va in circolo, capisce che è un effetto placebo, capisce che però ne è dipendente da questo, quindi e dai uno, ah ma sì, poi dopo alla fine andavano fuori e la mia segretaria dice, ah stavolta è arrabbiato, non mi ha neanche dato il Tavor. Allora, a questi livelli io continuo a crederci, dove posso ci sono riuscito, poi ci sono le cose, certe volte anche io sono acquiescente, se devo, c'ho uno fuori che magari brontola perché questa sta dentro a parlare un po' troppo, dici vabbè, oh, io te l'ho detto, lo fai, è sbagliato però. L'aggressivo è quello che dice, trasferisce le sue insoddisfazioni professionali, oppure a casa è andato male con la moglie ed è la cosa. Ho messo anche quelli fondamentalmente del... l'eccessivamente sicuro, che è quello sbagliatissimo, quello che non collabora, e quindi è vero che ho sentito alcune cose, lei che l'ha detto, cioè bisogna cambiare perché dobbiamo aumentare non il rapporto ma la comunicazione fra noi medici, fra i medici ospedalieri e i medici di base, i medici specialisti da un'altra parte. Sulla prevenzione in particolare. Su tutto. No. Perché non è solo prevenzione, cioè la prevenzione è una parte, secondo me diventa tutto, da un lato è basilare, da un lato, però non è solo quello. La diagnosi croce, diciamo. Sì, e poi c'è il medico che vabbè, è il conformista che dice che, ecco il conformista che mira soprattutto a tutelarsi, perché quello che diceva Salvatore Lumia è vero. Cioè noi, in questo senso, medici di base, abbiamo questo problema. Il famoso confessionale. Cioè noi ogni 15 giorni ci arriva il report di quello che stiamo spendendo per ogni paziente. E se sforiamo rispetto a quello che le linee aziendali hanno previsto, prevedono, ti chiamano e ti cominciano... Ovviamente non a bacchettare perché non possono, però insinuano la cosa dicendo ma come mai, perché spendi troppo, perché fai, ciao è stato un piacere, perché fai questi esami, perché tutte queste cose, quando puoi fare questo, quando puoi fare quello, quindi dopo lì diventa un po' difficile. Perché? Perché l'altro aspetto è anche questo, quando arriva il paziente, parlo da medico di base, attenzione, e non voglio, ho detto che è colpa nostra per tante cose, quindi non è che... Però quando per esempio il paziente, che per colpa nostra che l'ho detto, ma ci vede ormai solo, perché tutti parliamo, l'ASL, tutto il mondo così parla del ruolo centrale del medico di base, sono tutte cretinate. Perché il paziente, ripeto, in parte per colpa nostra, in parte per tutta una serie che ha già detto anche Salvatore, ci vede come il trascrittore, quello che deve dare la medicina perché in realtà lo specialista gliel'ha data, il fatto che ti devo fare, devo passare da me per avere i giorni di malattia, tutte queste storie qua. Allora, questo dopo fai fatica ad avere una cosa. E ripeto, quindi... da questo punto di vista c'è anche quello appunto conformista, perché? Perché dopo dice, beh ok, allora aspetta mo, non mi voglio far chiamare ogni 10 giorni, non voglio che A un mio collega gli hanno tolto dei soldi dal cedolino perché ha chiesto due risonanze e ha detto che non era appropriato. Ecco, il vero problema è che non si sa chi l'abbia deciso che non era appropriato. Poi è evidente che anche noi dobbiamo essere in grado di, perché se il paziente ultimamente, è vero anche questo, quello come diceva, il paziente è cambiato e anch'io ho messo qua degli altri, io ho parlato dei medici, adesso vi dico un po' quello che sui pazienti, cioè il paziente è il frequentatore abituale, cioè quello che dice che viene in ambulatorio due o tre volte alla settimana e ripeto, io se volete vi faccio adesso, oggi è giovedì, oggi è mercoledì, io venerdì vi faccio adesso una cosa scritta, venerdì mattina venite con me a Borgo Panigale e vi dico chi trovo, e li ho già visti lunedì, quindi... No, le percentuali di quelli che vengono sempre. No, poi no, c'è il frequentatore abituale che viene, quindi che il problema si capisce che dietro c'è un disagio e che quindi non viene dal dottore perché è ovvio, mi dice se io le do lunedì tanto per dire, non so, c'ho male alla schiena, gli do un Voltaren, adesso passatemi le cose. È chiaro che il venerdì forse il mal alla schiena non è passato del tutto e mi dice ah no, io sto malissimo, ma vuol dire che vuol venire a parlare con me e quindi da un lato ci può stare, ok, però se tu vieni tutte le settimane porti poi via spazio a gente. Poi c'è il paziente che non viene mai, che io dico per noi, proprio per rispondere alla sua cosa, non è che me la sono preso, noi non siamo privati, noi siamo ibridi e questa è una cosa che il servizio sanitario ci ha fottuto, perché io ho gli obblighi più o meno imposti dalla cosa che devo aprire l'ambulatorio un tot di ore dentro a certe mura, cioè io sono in centro, quindi rappresento porto 2, se io devo andare ad aprire un ambulatorio in via Mazzini non lo posso fare. Aprire la cosa, ho un fisso mensile a paziente e non dico quanto, ma lei si immagini poco e forse un po' meno di quello che lei si immagina. No, lo sappiamo. Su internet c'era. Perfetto. Lo sappiamo. Bene, bravissimo. No. Bene, no, però non voglio fare. No, no. Quindi, però abbiamo queste cose, però siamo liberi professionisti perché la malattia non l'abbiamo. Quindi se sto male metto il sostituto, pago, se oggi sono qua pago, di tasca mia, quindi siamo ibridi. Però a parte questo, per il paziente che non viene mai, per un medico è la cosa peggiore, perché da un lato è comodo, è brutto dirlo, però mi compensa quelli che vengono tre volte alla settimana, ma se succede qualcosa io non so niente. Non lo vedo, non lo conosco, so solo che magari l'ho visto 15 anni fa, 12 anni fa, 13 anni fa. Quindi questo. Un assist sul fatto che lei ha detto medicina di gruppo è un assist. Guardi, io la medicina di gruppo, questa è una cosa mia, personale, io sono. Tendenzialmente sto da solo, cioè, ma è una mia scelta, attenzione, questo, la medicina di gruppo. Però sappiamo che. No, no, la medicina di gruppo va da Dio. Attenzione, non è un assist mio, però è in quello che lei nella sua scelta, diciamo, io, c'è la medicina di gruppo. No, no, certo, c'è la medicina di gruppo, c'è la medicina di gruppo, c'è la medicina di rete. Non è una. No, no, ma sto bene. È una cosa. No, no, medicina di gruppo è anche medicina di rete, anche. Il mio è un assist, avrei 40.000 cose da dire, ma non è giusto che va. No, sono certo. Un assist perché, visto che lei assolutamente dice io sono qua perché io qua, medicina di gruppo potrebbe essere la soluzione. Sì. Allora posso rispondere come penso. Sono una cosa medicina di gruppo. Medicina di gruppo vuol dire che in un poliambulatorio ci sono 5 o 6 medici con i loro pazienti. Ma tutti di base? Tutti di base. Ah, okay. Tutti di base. Con una segretaria che più o meno uno o due che ovviamente viene nella cosa, che gestisce gli appuntamenti di tutti. D'accordo. E come dice giustamente, il vantaggio è, al di là adesso del fatto che ce n'è qua, il vantaggio è che se io non ci sono, tanto per dire, posso far sostituire dal collega. Okay. Quindi è vero, è un vantaggio. E poi le dirò anche una cosa, è un vantaggio perché ti danno anche un incentivo per questo. Però io personalmente, ma sa anche perché? Perché immodestamente parlando, io molto spesso con molti miei colleghi non mi trovo d'accordo sulla gestione delle cose. E allora preferisco, finché posso, metterci del mio, in bene il bene e nel male, magari. Io sono stato un ospedaliero, sono in pensione. Quello è una dinamica che in tutti i reparti esiste, ma che se c'è un buon direttore di reparto e dei buoni medici si supera. Basta volerlo. Ah, sono d'accordissimo. Nel reparto, sì, nel reparto lì c'è. Sì, 40 anni ospedaliero. Ma sono d'accordissimo, la ringrazio. Però in realtà lì, appunto, se c'è uno che dirige bene, c'è la cosa. Altri invece non ne conta. Comunque, ritornando alla cosa. Vorrei solo dire una cosa, poi c'è anche un altro fatto, la medicina di gruppo favorisce che cosa? Allora, sfavorisce intanto la medicina difensiva, perché c'è più tempo, dovrebbe essere dovrebbe. Nel gruppo, per cui il medico è in grado di, utilizzando bene la rete sole e comunque quello che è in rete, di capire comunque, anche se il paziente non va lì, di capire che cosa sta succedendo a quel paziente. Per cui fa come una specie di analisi comunque di quel paziente, capito? Perché quel paziente ogni tanto farà anche qualche esame, qualcosa va a finire. Cioè, il problema, quando io dicevo che è necessaria un'interrelazione stretta tra il medico di medicina generale, lo specialista nel gruppo, che poi è la configurazione della casa della salute. Però la medicina di gruppo non è mica quella. Quello che dice è la prefigurazione della casa della salute. Sì. Che altro non è che è un po' diverso. C'è anche gli specialisti, è un po' diverso. C'è tutta una serie. Dovrebbe avere, ma. Però quello che io credo, scusi, quello che io credo è che non ci sia, quando io ho detto prima, deve essere un po'. No, non mi sono. È che voi comunque, e anche il fatto che lei non fa medicina di gruppo, io non voglio accusare, però voglio far emergere le questioni, perché sennò non si riescono ad affrontare e a trovare delle soluzioni. Voi vi comportate magari piccola parte da privati. Allora, se c'è un progetto che è stato approvato e ha delle caratteristiche innovative, perché non fare diventare accettazione? Cioè, facciamolo seriamente questa cosa qui, mettiamoci tutti della volontà in discussione, perché sennò qui non si cambia. Cioè noi qui continuiamo a parlare e alimentarci e non si cambia, cioè c'è questo progetto, facciamolo, convinciamoci, porca miseria, ma con tutta la nostra forza. Peggioriamo sempre. Alcuni progetti che diventano anche, poi dei decreti. Vengono. Anche il paziente però. Certo, perché ma oggi il paziente ha bisogno di informazione. Vengo da un'altra riunione, ho scoperto una cosa. Che il paziente, se viene ricoverato, può anche, l'hanno chiamato oscurazione, oscurando, che il medico di base, se io lo voglio far sapere, il medico di base che sono ricoverato e perché la ragione è un mio diritto, ok? E lui non deve sapere nulla, il medico di base. Allora, dal mio punto di vista, questo nel rapporto fra paziente e medico, io non sono d'accordo, perché se il medico di base lo deve sapere, mi deve seguire, mi deve tutelare, mi deve dire, allora anche noi, che certo, se io mi metto in prima fila, ma io mi domando perché il paziente fa una scelta del genere, discussione, okay. Perché su sta cosa c'è fatto non perplesso, è perplesso. Perché non no, è non è mica vero, il paziente è impossibile che non sia stato informato, perché te lo chiedono sempre, vuole che venga informato della sostanza, non informato dal punto di vista burocratico. Vabbè, certo, allora facciamo la riunione. C'è bisogno di tempo di parlare. Io volevo dire una cosa su quello che diceva, i decreti vengono fatti, ma io vedo che spesso non vengono fatti da alcuni pochi che decidono e gli altri devono andare dietro. Quindi secondo me su certe materie bisognerebbe, prima di arrivare a delle decisioni, ascoltare, perché la Casa della Salute, che è bella, se voi lo leggete questo giornale, c'ha tanti buchi. Oltretutto, nell'organizzazione del sistema attuale, in cui si vorrebbe utilizzare i risparmi della riduzione dei posti letto ospedalieri per finanziare le case della salute, dove ci sono gli ospedali di comunità che devono servire per le lungodegenze, la gestione infermieristica, ma si vogliono fare con quei risparmi. Però come si fa attualmente a ridurre i posti letto se non hai già gli OSCO che funzionano? Come fai a ridurre gli accessi al pronto soccorso se non hai già una Casa della Salute organizzata con il gruppo di medici, di specialisti, con le strumentazioni? Quando non ci sono i nostri, Rizzo Nervo parla della Casa della Salute del Navire, dice: metteremo lì 30 milioni per costruirla, per i muri. Per questo dico i risparmi dove vanno a finire. Cioè, dei muri non ne abbiamo bisogno, ma ne hanno costruiti tanti del cemento. Ma per finanziare tutto quello che ci va dentro, i soldi non ci sono mai. Per questo io dico, ci sono delle scelte. Poi fanno il decreto regionale, si deve fare così, l'hanno fatto e adeguiamoci, e dice, sono d'accordo, ma se questo decreto, prima di farlo, avessero fatto meglio, ci sono dei documenti, vabbè, noi come ordine ne abbiamo fatto uno. Ho visto il documento che ha fatto un gruppo di medici, adesso dico, del PD, che praticamente dice le stesse cose. Quindi, voglio dire, chi programma le cose purtroppo fa dei salti in avanti senza ascoltare. Questo è un esempio, questo vale per la riorganizzazione ospedaliera sul territorio. Non so se avete visto la riorganizzazione ospedaliera metropolitana, io non lo so chi l'ha fatta. Cioè, ci sono molti ospedali dove sono vicini e dove c'è il territorio che ci si muove bene in macchina. Si svuotano invece gli ospedali della montagna, gli ospedali lontani, punti nascita, cioè dei ragionamenti che secondo me prima di o vengono fatti perché le necessità sono altre, o se fossero fatti davvero per razionalizzare la spesa, i servizi, dare dei servizi migliori, dovrebbero avere un percorso diverso. Quindi voglio dire, sì, l'hanno fatto, diamoci, sì, la medicina di gruppo, che la medicina di gruppo però riguarda i medici di famiglia, mentre le aggregazioni funzionali che dovrebbero essere nelle case della salute sono un'altra cosa. Poi adesso cosa vogliono superare? La specialistica di base utilizzando gli specialisti ospedalieri all'interno delle case della salute. Bellissimo, però allora mi devi assumere dei medici ospedalieri che già sono in sofferenza per tante cose. Adesso io parlo di un mio caso personale, ha deciso Venturi e Rizzo Nervo di fare la Week Surgery del Sant'Orsola Budrio, chiamandolo il padiglione Budrio. Allora, cosa hanno ottenuto? Hanno ridotto i posti letto di medicina per i budriesi che quando hanno bisogno devono andare a Bentivoglio, quindi già abbiamo perso Budrio. Come... Poi cosa succede? I pazienti di Bologna devono andare a far superare l'ospedale di Budrio e i medici del Sant'Orso devono andare all'ospedale di Budrio. Questo posso integrare? Finisco. E in più all'ospedale di Budrio certe cose le fai, ma non hai quella sicurezza per il paziente che avresti all'ospedale Sant'Orso, dove peraltro un terzo è vuoto. Dove ci sono sale operatorie e reparti vuoti. Perché queste scelte? Se quando si è cominciato a parlare di questa cosa, un po' se ne è parlato, gli abbiamo detto tutte queste cose, ma non ne hanno tenuto conto, zero. Quindi fanno i decreti, vanno avanti e poi, e qui il rapporto medico-paziente, tu figurati quando viene da me il paziente che sta in via Massarenti 202, che lo devo operare di ernia, e dico sì, ma ti devo portare a Budrio. Ah, ma io sto qui davanti all'ospedale, ma perché non mi opera, ma perché devo andare là? Cioè, tutto questo sembra che sia io Che, oppure perché mi tocca aspettare un anno o due anni, perché quando poi dice riduciamo le liste d'attesa, sapete come fa il dottore a ridurre le liste d'attesa attraverso i direttori sanitari? Chiamano i pazienti che aspettano da 5-6 anni e gli chiedono: ma lei ancora non è stato operato? Ma vuole ancora essere operato? Ah no, va bene, la cancelliamo. Vedete che tra un po' dirà che ha ridotto le liste d'attesa del 15%, del 20%, che sono tutti cancellati. Oppure va a pagamento. Invece di, le liste come si riducono? Aumentando i servizi, e che poi non vengano a dire che se aumenti l'offerta di prestazioni aumenta la domanda, che non è vero, questo è un ragionamento burocratico di chi vuole risparmiare. Comunque, scusate un po', dica pure. La mia precisazione parte dal fatto che lavoro al Sant'Orsola da tanti anni, mi sono occupata di comunicazione e sono stata capo ufficio stampa per troppi anni e da 4 lavoro in ematologia. Da sempre mi sono occupata dell'informazione del cittadino, scontrandomi spesso anche con i direttori generali, perché secondo me chi fa informazione in un ospedale deve soprattutto informare gli altri, mi viene da dire gli altri, perché prima bisogna informare i medici all'interno, poi i medici di medicina generale e poi le persone. D'accordissimo. Perché la circolazione dell'informazione deve andare ovunque. E ho fatto delle discussioni enormi perché io mi sono fortemente rifiutata di fare il portavoce politico di certi direttori generali e ho continuato a fare per quel che potevo informazione. Su che cosa? Su quello che accadeva all'interno dell'ospedale, perché quello era il mio mestiere, non potevo fare di più. Ma ho cercato di farlo con tutte le mie forze. Quando mi sono resa conto che non riuscivo più a farlo, mi sono spostata, mantenendo quelle che erano le mie competenze, in una realtà molto più ristretta, in una realtà di eccellenza, che è l'ematologia del Scragnoli, e quindi continuando a fare informazione all'interno per i pazienti, attraverso i medici, attraverso l'area e la componente infermieristica, ma non solo, perché in quell'ambito lì poi io mi occupo di altro, adesso sono direttore amministrativo, quindi seguo un po' tutto quello che accade all'interno. Ho raccontato questo solo per cercare di inserire la puntualizzazione che volevo fare in un contesto che è il mio contesto professionale. Quello che mi ha sconvolto di questi ultimi anni è un discorso molto più generale. Io spesso mi chiedo dove sta andando la sanità. Io sono nata e ho cominciato a lavorare quando si parlava di partecipazione. Io sono nata con la famosa legge 833. La partecipazione non era solo una parola, ma era veramente, si cercava di coniugarla. Quindi i primi comitati misti consultivi, le associazioni di volontariato all'interno degli ospedali, ma associazioni che lavoravano con noi, quindi dove veramente la voce dei pazienti arrivava. Quello che mi dispiace è che tutto questo è stato cancellato, e quindi io mi chiedo, ma come? Bisognerebbe crescere e andare avanti, ma non cancellando quello che c'è di buono sul passato. Questa è una delle cose che storicamente ogni tanto vediamo, no? Anche in culture e civiltà che scompaiono, ed è successa nella nostra sanità. E quindi mi ha lasciato veramente. Sì, questo per... A volte non dico che mi diverto, perché questo non fa assolutamente divertire, ma spaventa, però mi metto lì e dico: ma pazzesco, noi abbiamo fatto delle cose incredibili, questionari di soddisfazione dell'utenza, andando proprio in mezzo alle persone. Siamo arrivati a capire che non era il problema, cioè i medici erano la parte più competente dell'ospedale, scusate, dico delle cose forse non condivise, le direzioni generali avrebbero potuto chiudere il giorno dopo e l'ospedale avrebbe continuato tranquillissimamente a lavorare come lavorava prima, perché ovviamente il personale infermieristico, il personale medico, tutti hanno fortissima competenza. La sanità ha continuato a crescere, la medicina è migliorata, in questa regione si fa un'ottima medicina e questo nonostante tutto viene da dire. Certo. Quindi quando lei ha toccato il discorso di Budrio, io c'ero quando qualche anno prima, ma solo qualche anno prima, Abbiamo inaugurato 12 sale operatorie cosiddette intelligenti con dei costi pazzeschi e io ho fatto vedere sale operatorie che non funzionano a pieno perché si è andati a operare a pieno. Allora, la programmazione sanitaria che cos'è? Bisognava fare programmazione sanitaria ma fin dall'inizio. Cioè, se vogliamo fare le case della salute, perfetto, allora non apriamo dei padiglioni nuovi in una struttura ospedaliera dove magari metà padiglione funziona perché si va a fare altrove la sanità. Quello che manca è un rapporto tra strategia politica, che credo che forse non sia molto chiara in questo periodo, tra il contesto ospedaliero e il contesto territoriale, perché un tempo forse c'era più raccordo, adesso io ne vedo molto meno, e quello che manca è la voce dei medici, è la componente professionale. I medici spesso, e faccio una critica fortissima anche a loro, anche a voi che siete qui, hanno seguito forse degli interessi, alcuni, degli interessi loro personali, perché se parliamo di Budrio ci sono state tutta una serie di incarichi di vario genere, di questo tipo, tant'è che le voci contrarie che c'erano all'inizio qua non ci sono più state, perché va bene così, perché alla fine io ho avuto un ritorno positivo sulla mia struttura, su me stesso, sui miei medici, quindi va bene così. Non pensiamo invece che i costi che abbiamo avuto con questa, è un esempio, ma ne potremmo fare altri 100.000, sono stati altissimi perché non pensiamo mai ai costi sociali. Io penso alle sale operatorie che non funzionano a Sant'Orsola e penso all'anziano, perché noi abbiamo una popolazione sempre più anziana, che deve accompagnare la moglie o il marito a Budrio, che non sa come fare a raggiungerlo, perché ci sono tantissime situazioni di questo tipo, con degli anziani che, poveretti, vanno dove vengono inviati, vanno dove possono andare a fare la risonanza, l'esame, eccetera, ma con dei costi sociali altissimi, perché poi coinvolgono tutta la struttura familiare. Quindi secondo me, cosa fare oggi? Ma oggi, secondo me, la parte professionale è più sensibile. Non esiste, la programmazione bisogna farla a un tavolo dove c'è la componente sociale, dove ci sono le persone, dove ci sono i pazienti, i rappresentanti dei pazienti, ma dove ci sono anche i medici e gli infermieri. Tutto questo è scomparso, ma come si può pensare di parlare di strategie politiche, di organizzazione sanitaria se non c'è più niente? Stiamo vivendo una quasi dittatura sanitaria. La nostra conferenza sanitaria territoriale è praticamente l'organo di trasmissione delle direttive dell'assessorato regionale, dove non c'è più nessun tipo di comunicazione e di partecipazione. Ci sono così sindacati confederali che fanno interventi in linea, le organizzazioni non vengono, invece le organizzazioni sindacali dei medici non ne fanno parte. Io ho richiesto a Rizzonervo più volte di invitare i medici ospedalieri, se ne guarda bene. Le organizzazioni dei pazienti non hanno voce in capitolo, anche perché i comitati consultivi misti praticamente non funzionano, sono stati svuotati. Quindi è chiaro che tu dici fanno il decreto e c'è il decreto, lo facciamo, però cavolo, quel decreto lì è una direttiva, non è più quello che poteva essere una volta l'esito di una forma di partecipazione, quale dovrebbe essere la partecipazione in ambito sanitario della popolazione che deriva dall'833. Poi andrei su altri. Facciamo, diamo spazio anche all'ultimo intervento perché era non si assegna la parola, era un laboratorio autogestito, quindi mi dispiace anche tagliare questo scambio. Va bene, perché sennò andiamo. Professore, sta lei. Prego, si vuole aggiungere qualcosa? Ne ha sentito purtroppo, tanto. No, purtroppo la discussione ha preso degli aspetti multivariati. Io mi sono limitato e mi limiterò solo a parlare di quello che è il rapporto medico-paziente dal punto di vista clinico. Forse perché ho vissuto 40 anni in ospedale, il rapporto mi è più facilitato. È più facile perché ogni giorno c'hai quel paziente con quel suo problema e quindi il fatto stesso di avere la capacità e diciamo pure anche le attrezzature a tua disposizione sicuramente facilita la diagnostica. Ecco, quello che noto parecchie volte, a parte anche dei medici di base, qui abbiamo un amico, che c'è questa scarsa integrazione tra quello che è il rapporto medico di base e medico, diciamo, dell'ospedale. Perché se io a un dato punto riesco a collegare il momento diagnostico con quello che riguarda anche la prognosi, la terapia del paziente, questo sarebbe già un passo avanti notevole. Io ti dico, in questi anni ho visto che la medicina clinica purtroppo non la fa più nessuno, però diceva il famoso clinico, dice, noi continuiamo ad avere un rapporto con il paziente che sia basato sulla clinica. Che cosa significa? Significa che tu, una volta che hai un paziente a tuo carico, devi sviscerare tutto quello che puoi sviscerare. E quindi, cominciando dalla base, diciamo, ma non abbiamo il tempo perché la diagnostica, e allora chiedi esami su esame. Io posso raccontarti delle aneddotiche, come quello che a un dato punto viene preso da un dolore davanti al petto. Parlo ovviamente di ipotesi che mi sono congegnate. Dice, ma ero su in montagna, e questo è emblematico, attenzione, ero su in montagna, stavo camminando in salita, è venuto un gran dolore, mi sono fermato e il dolore è passato. Ah, bene. Allora, questo qui chiede al sottoscritto che cosa deve fare. E vedo che c'è la richiesta, un po' un purpurì di tutto, no? Però non c'è la cosa fondamentale, cioè richiedere per quel paziente che ha avuto quella sintomatologia una prova. La sforza, non chiede l'attacco, la risonanza, la radiografia, per cui si perdeva del tempo. Ecco, allora a questo punto volete sapere com'è finita, probabilmente il paziente, ragione deontologica, è finita che quel paziente è andato sotto i ferri dopo 2 giorni, perché ho consigliato di fare la prova, l'hanno fermato, dicevo, guarda, è andato in solo per 8 ore, è un'ischemia acuta sotto sforzo. Quindi la clinica ha ancora il suo valore. La clinica viene da una parola greca che è kliné, che vuol dire letto, perché io visito il letto del paziente. Al letto si fanno tante cose, tra cui anche visitare il paziente, ma questo di avere il rapporto con il tuo paziente è fondamentale. E infatti in tutti i nostri libri la prima cosa che si affronta è quello che è l'interrogatorio del paziente, chiamiamolo l'anamnese, in termini di perché sei venuto qui da me. Sono venuto perché ho questo disturbo, però non approfondisci se quel disturbo è dovuto a una cosa, non fai una diagnosi differenziale. Allora a questo punto il paziente viene fatto girare, non l'abbiamo chiamata la sindrome di Ulisse, mi piace questa sindrome di Ulisse, perché gira, e alla fine nessuno trae una conclusione diagnostica appropriata. Magari fai tanti esami non appropriati, e quindi questo a scapito anche, diciamo pure, di quello che riguarda le risorse finanziarie. Ma sarebbe opportuno che ognuno nel proprio ambito, medici che sanno cosa vuol dire la medicina, facesse per ogni paziente un piccolo percorso in relazione a quello che lui ti dice. Questa sarebbe l'anamnesi ragionata, che come anche, diciamo pure, anche la nostra deontologia, già questo lo diceva Ippocrate, però allora certi concetti, tant'è vero che il giuramento di Ippocrate l'abbiamo fatto tutti. Noi giuriamo di essere, giuriamo di curare il paziente e poi lo facciamo bene, lo facciamo male, nessuno ci giudica. Però Ippocrate diceva anche, attenzione, parlando di un discorso che ha tirato fuori lui, a proposito delle vite sospese, delle rianimazioni e cose, io non darò la morte a nessuno, nemmeno se lo chiedi in ginocchio. Lo diceva 400 anni prima di Cristo. Quindi voglio dire che da allora la medicina aveva dei canoni che vengono seguiti ancora adesso, e vengono seguiti a tal punto che se il paziente, invece di essere trascinato in lunghi giri tra gli ospedali, gli ambulatori, avesse un punto di riferimento sicuro, io ne ho conosciuti in 45 anni da quando sono laureato di medici di base, con cui ho avuto ottimi rapporti, però insomma c'era un rapporto che poteva condurre a beneficio del paziente un interdiagnostico serio, motivato e non dispendioso, perché si spende troppo per la sanità. Ma quante prove vengono fatte, quanti esami vengono fatti in maniera non appropriata, perché l'appropriatezza è uno dei, diciamo, dei cardini su appropriato, il che significa fare le cose giuste al momento giusto. Vi voglio raccontare solo l'ultima cosa, perché molte cose le hanno detto i miei colleghi in maniera molto giusta, che la regione alcuni anni fa cosa fece? Fece un protocollo per quanto riguarda quello che, diciamo, i tempi di accesso alle prestazioni, cioè questi sono urgenti, devono essere fatti entro tre giorni, questi erano urgenti e davano da tale. Allora sull'urgenza mi sono preso la briga, allora ero a Bellaria, dico andiamo a vedere. Dice, la prima cosa che si chiedeva era la motivazione. Dice, io ti chiedo questo, motivazione è sospetto angina, sospetto scompenso cardiaco. Ecco, quindi la clinica torna fuori. Non è vero che la clinica sia soppressa. La clinica viene fatta dal medico di base e i medici di base hanno una grande funzione, quella cioè di indirizzare il paziente verso la strada giusta. Assieme a questo c'è il medico, chiamiamolo, dell'ospedale, che può aiutarlo. Abbiamo avuto un ottimo rapporto con lui per una patologia che era lo scompenso cardiaco. Adesso è diventato il paziente scompensato. Poi naturalmente c'è tutto insieme di quello che poi riguarda l'eziologia dello scompenso, però lo scompenso cardiaco è diventato un obiettivo della, come se fosse l'unica malattia che può colpire un paziente. Non è l'unica, perché lo scompenso cardiaco può essere dovuto a un infarto, può essere dovuto a un'angina, può essere dovuto a tante cose. Però ecco, questa dispersione delle risorse è un discorso che avete fatto voi due, che mi trovo, dispersione delle risorse. Ma com'è, vi chiedete come mai in questi anni sono sorti tanti ambulatori accreditati, c'è l'accreditamento, tutti naturalmente, ma io non lo dico con ironia, dico che sono stati accreditati per una semplice ragione, che le strutture pubbliche di volte pubbliche non riescono a smaltire le lunghe liste di attesa, no? La gente che aspetta di 6-8 mesi per fare un esame. Però dove vuole farlo? Vuole farlo in ospedale? Io voglio andare in quello. E allora lì le liste si danno. Se invece vado a Budrio, c'è dei medici provinciali, le vado con l'indirizzo, fanno l'esame in una settimana, però è un ospedale che non attrae, perché c'è l'attrazione fatale. Però non c'entra niente su questo. Comunque, io finisco dicendo, dobbiamo riappropriare di un rapporto col paziente che vada attraverso un rapporto col medico di famiglia. Così, mio padre era un medico di famiglia, la medicina è cambiata a tal punto che siamo nell'era dei trapianti. Nel 64 c'è stato il primo trapianto del cuore, il cuore non si toccava. Il cuore, secondo anche la regione egizia, si pesava il cuore e si pesava una piuma. Se la piuma e il cuore si pesavano uguale, vuol dire che quello era un uomo giusto. Ma tu pensa, 3.000 anni fa, ma per dire la citazione, perché mi piace. E con questo io vi saluto, cari amici, e ho avuto molto piacere in questa chiacchierata. Io mi sento di concordare moltissimo, ecco, quello come farsi sentire. Parla forte perché purtroppo. Come farsi sentire dalla politica che fa delle scelte senza coinvolgere. Quindi questo è il problema, mi pare, nodale. È vero, Marini. Da quanti anni ci conosciamo? Troppi non sono, però sei sempre in ottima forma. Scusate, ci sono delle domande, degli interventi, abbiamo ancora qualche minuto, se volete un volevo dire. Va bene, prego. Se riesco a dirla finalmente. Sì. Io mi sono trovata in una situazione così, mio marito a seguito di un incidente stradale si è rotto una vertebra alla quarta del collo che ha leso il midollo. È stato ricoverato e operato al Maggiore. Dopo 3 giorni in coma ci ha mandato su a Montecatone, dove siamo stati là in coma prima e poi dopo tutta la trafila 8 mesi. Finché uno è a Montecatone, è in un posto che sono specialisti di questa cosa, quando siamo venuti a casa è cominciata la tragedia, perché ti volevo dire una cosa. Sto qua. Sì. Questi malati hanno delle infezioni urinarie tremende, anche se ogni 6 ore facevano lo svuoto con il catetere. E guarda caso queste febbri a 40, 41, anche 42 le venivano quasi sempre a fine settimana. Chiamavamo la guardia medica per farci segnare anche l'antibiotico. Dicevano di portarlo all'ospedale, fa tutta la trafila al pronto soccorso. Una volta ho detto, sono già passate più di 6 ore, mio marito deve essere svuotato. Ah, signore, quando vai in reparto? L'ha svuotato dopo 10 ore più. E ho detto, se mi date un catetere lo faccio io. Ah no, lei non può toccarlo. Dunque, noi ci siamo trovati in Bologna, dopo ha avuto anche un ictus e cose. L'ospedale cercavo di scaricarlo immediatamente a Montecatone, perché mi ha detto chiaramente anche un medico, che il nostro medico di base, ha detto è il primo che vedo con una vertebra al collo lesa. Quindi io non so nemmeno come toccarlo, e anche a fare la fisioterapia abbiamo provato negli ambulatori dell'USL di Bologna, ma cos'è successo? Che i fisioterapisti avevano paura di toccarlo. Io ho visto su a Montecatone, li manipolano sapendo come. Poi, dopo l'ictus, aveva bisogno anche di un elevatore, perché io non ero più in grado di manovrarlo da sola. L'USL ci voleva dare l'elevatore senza la macchina. Solo come un'automobile senza motore. Insomma, io l'ho presa di petto, mio marito con me, abbiamo cominciato, ma chi ha scelto, chi ha deciso questo qui è una delle, dell'USL, una amministrativa, non c'era verso, io ho detto che volevo arrivare fino alla fine, perché noi potevamo anche eventualmente aggiungere 600 euro per comprare il motore, ma c'era gente che non li ha. Alla fine siamo arrivati a cosa? Ma perché certi ammalati particolari così, sa cosa mio marito che era stato sempre in quartiere, consigliere di quartiere per 32 anni al Savena e quando è successo stava andando in quartiere. Ha detto chiaro e tondo, ma perché ci fate vivere se non ci date quel minimo possibile per poter vivere? E allora, anche il medico di base che mi dice chiaramente io non ne ho mai visto uno, allora perché non vieni su a Montecatone negli 8 mesi, è vicino Montecatone a Bologna, per parlare con i medici, per sapere che cosa deve fare? Non lo so. È vero, non dottore, posso permettermi di dire altro che ha ragione. Non posso permettermi di dire altro che ha ragione. Che ho ragione. Nel senso che non, e io, non mi sento di... Mio marito sia morto da 5 anni, continuo a battermi per queste cose, perché io ho visto a Montecatone c'è un sacco di gente che non ha voce, cioè non ha voce perché non sa cosa fare. Allora, io avevo il computer sul portatile, con mio marito scrivevamo, coinvolgevo il direttore generale, mi arrabbiavo col direttore generale ho fatto delle battaglie enormi, ma perché se qualcuno non le fa, la cosa continua così. Il direttore generale, io sai Anna, ho i bilanci, devo quadrare i bilanci. E io dico, me ne frego dei bilanci. Il bilancio può essere anche il rosso, quando c'è una cosa che non puoi fare a meno di averla. Sì. Questo problema qui che citava la signora è un problema di rapporto medico, azienda, politica, sanitario. Cioè, a me piacerebbe molto affrontarlo, avete capito, avrei tante cose da dire, però se ci mettiamo a parlare di questo andiamo fuori tema. Ecco, magari forse il medico di famiglia in quegli 8 mesi avrebbe fatto bene ad andare, così come quei medici di guardia medica avrebbero fatto bene a venire. Recentemente ne abbiamo anche sanzionato qualcuno, perché non va a vedere. Ma infatti, se no cosa serve la guardia medica? Però questo fa parte. La funzione della guardia medica niente, perché sono ragazzini. Volevo sentire. Scusa, c'era un altro intervento, però magari. Resistiamo. Io faccio anche volontario, facciamo tutti anche. Le persone che sentivo prima che dicevano una cosa, parte dietro, facciamo anche questa cosa. E a volte abbiamo frequentato anche le case della salute. E lo frequentato anche di quella personale. Non voglio, come dire, farne un erbo, però mi è sembrato che anche lì il rapporto medico-paziente sparisca. E non ci sia. Mi è sembrato, e lo dico così brutalmente, che sia quasi una macchinetta. Alcuni casi di gente che abbiamo portato a fare, io non ho fatto in tempo, a metterlo, lasciarlo lì, che dovevo entrare, andare in basso, io farò, mi ha fatto l'esame, non so quale, è rimasta anche lei. Quando è uscito, la signora ha detto, ma scusate, sono degli bugnacci, ma è per quello. Nel senso che, proprio fatto a macchina, e di questi casi ne ho sentiti più di uno. Come dire, stamattina sì, ne liberiamo un tot, però parlo per la questione del riguardo il rapporto paziente e allora, io capisco e non voglio entrare nel merito del forse questo ho fatto la miglior cosa del mondo, ma l'impressione del paziente non è che si aspettasse che, e non trovo neanche giusto il paziente che venga lì, e vi devo dare atto, voi medici di base, che anche noi in generale, io la nostra dottoressa poveretta, dico poveretta perché a volte gli faccio coraggio io a lei, e ha anche ragione. Voglio dire, anche qui, il problema dei medici di base, che diciamo che bisogna che colà, ma c'è anche un problema di finanziamenti. Insomma, la salute, quando facciamo questi benedetti bilanci, questa roba qua, gli vogliamo spendere qualche soldo, non per buttarli, perché il professore diceva bene, dobbiamo stare attenti, diceva bene il dottore, qua diceva, è inutile che facciamo, però dove c'è bisogno dobbiamo metterli. Finisco con un particolare, noi avevamo deciso di donare una macchina, non so, ricordo neanche tutto, fatta dalla nostra USL, come dire, come volontari, e ci eravamo anche predisposto, è venuto il direttore dell'USL, che è stato la persona più onesta in questo mondo, ci ha detto: guardate, se voi ci pagate una macchina per fare il radio, queste cose qua, vi dico cosa succederà, che noi lo metteremo giù nel quarto magazzino coperta e per qualche anno nessuno lo toccherà, perché io quella macchina lì dovrei chiedere un tecnico e questo non è possibile. Ci serve una macchina, perché noi come USL ci mancano delle macchine di andare avanti indietro. Per dire che ci sono altre preoccupazioni, credo che vengono essere collegate la questione dei finanziamenti, l'attenzione. E le case della salute andranno bene, mi auguro vadano bene, se vanno bene, in un senso che funziona nel modo giusto. Il 118, perché quello l'ho avuto io sulla mia pelle, e mi è sembrato che sia un po', come dire, che entri lì e che ti siano mezzi medici, che ti cominciano a dire addirittura qualche dono. Nel mio caso non faccio il nome del cadavere perché lo conoscete, anche straparlato in un certo modo, però va benissimo. Poi io avevo un problema, tutte le volte bisogna aspettare 4 ore che mandano dall'aria il resoconto, dopodiché ritorni indietro quello che ti dice il professore, però là che ti dice, digli che questo qua per 2 mattine deve prendere questo steroide qua. Ora, se questo dà i risultati, ben venga, io non è che... Però alla fine mi hanno detto, quando sono uscito, vai a fare la visita da un urologo, mi dice, che venivo, ho trovato un angioma, tutte queste robe, il primo l'ho trovato a Poretta dopo non so quanti mesi. Cosa è successo? Come si fa a stare con queste robe qua? Sono venuto da lì, ho pagato 200 euro con le lire e dopo 8 giorni, e finisco poi con questa storia qua e poi basta. Mi è dispiaciuto un pochino su questo. Lì all'entrata c'erano, ma anche sul laboratorio, 20 persone che aspettavano. Sono arrivato, professore, mi hanno quasi accompagnato come un signorino e sono entrato dentro la stessa struttura. Insomma, cosa che io non è che ho capito proprio, se devo dire la verità, mi ha fatto anche un po' male. Erano tutti lì a sedere, io sono arrivato, sono salito, sono andato al laboratorio perché alle 11:30 dell'appuntamento, dopo 6 giorni ho avuto una visita in Europa. Ci staranno anche queste cose, però a volte si fa anche fatica a dire, a comprendere. Scusate. Posso dire una cosa? Sì, sì, vale, io magari facciamo l'ultimo intervento perché sono già le 6:30 e... Sarò brevissima. Ma volevo farlo. Sarò brevissima, non racconto delle storie. Allora, volevo dire, mi sembra che la percentuale di età qua dentro sia superiore ai 60, se non in 2 casi o 3. Allora, mi chiedevo, il problema del rapporto medico-paziente, questo rapporto, questo problema etico che voi vi ponete come medici, io sono di un altro mestiere, ho avuto comunque dei problemi etici nel mio rapporto con i miei clienti, sono un architetto e comunque dovevo però per fortuna si trattava di salute, è sentito dalle giovani generazioni. Allora vi spiego, io 63enne come il dottore e forse qualche altro qui, abbiamo avuto il medico di famiglia, quello che veniva, vedeva anche dove abitavi, vedeva quanto lavoravi, se la madre era casalinga e quindi badava i figli, se la madre lavorava, cioè vedeva la situazione familiare, vedeva più o meno, sapeva come frullava la famiglia e poi ti accompagnava. Cioè le giovani, e questo noi ce lo portiamo dietro come bagaglio, per cui nella nostra, vostra diciamo, professione avete un esempio che non dico che cercate di ricopiare, però ce l'avete in testa questo esempio. Le giovani generazioni secondo me l'hanno perso, hanno il tipo di medico che vai lì, purtroppo se ne vedono, gli presenti, non so come dire, la carta dello specialista e non si pone neanche il problema di dire sono d'accordo, non sono d'accordo, proseguirei in questo modo. Forse si aspettano che glielo dica tu o che tu vada dopo, non lo so, molte volte non c'è proprio dialogo con il medico di base. Allora mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, in un probabilmente ci saranno i prossimi anni che continuo a questa scuola, un incontro di avere anche una generazione giovane di me, due che dicano se lo sentono questo problema, perché magari finisce qui, cioè dove va la salute, dove va la medicina, forse è un problema che abbiamo noi, poi finita lì. Non credo d'accordo. Posso interrompere, perché la domanda che volevo fare alla signora va più o meno in questa direzione, quindi magari se le raccogliamo così... Sì, era nel senso, cioè, data l'importanza appunto del ruolo del medico di base e del rapporto con i pazienti, lei era partito anche facendo un pochino di categorie di pazienti, è evidente anche che dipende anche dalle problematiche. Con l'aumento dell'età media ovviamente ci sono queste cronicizzazioni di problemi, anche problemi di difficile gestione, di equilibri difficili da mantenere, quindi di una necessità del paziente e dei familiari del paziente di avere un rapporto anche più diretto, magari con la necessità di avere la visita domiciliare piuttosto che. E quindi io mi domando se possa avere senso, come esiste il pediatra per l'età neonatale fino a 4 anni, però il geriatra è uno specialista, cioè io pensavo che sì, però il medico di base potesse essere assimilato a una figura come il geriatra, in modo tale, perché molto spesso se no si è quasi costretti a ricorrere al pronto soccorso, all'ospedale o a uno specialista, quando alcune cose, cioè alcune che magari sembrano emergenti al paziente o al familiare, al paziente geriatra, possano invece essere risolte più efficacemente anche con un medico di base, cioè diciamo generico. È difficile che possa avere l'attenzione per un ultra ottantenne come magari può essere necessaria, anche per risolvere certi problemi che possono essere anche banali per il medico, ma di squilibrio appunto per scompensi cardiaci piuttosto che di altre cose, per cui anche un aggiustamento di una terapia di pressione o una tachicardia. Un medico dovrebbe riuscirci, giustamente la pressione, il medico di base. I tempi. Tempi, perché è determinato che c'è una pressione troppo bassa piuttosto che una pressione troppo alta, possono essere dei campanelli d'allarme per cui occorre magari andare effettivamente a soccorso, ma una visita magari può evitare, no, quindi io domando se ha senso. No, nel senso ha senso, quello le dico, quello che in teoria è un po' quello che ho detto prima, ho detto faccio un po' di gelo perché non voglio dire io lo faccio, gli altri no, gli altri, anch'io mi trovo certe volte nella difficoltà di poter farlo almeno nel momento che mi viene richiesto, magari posso andare dopo due giorni che magari invece è un po' tardi, però questo qui dovrebbe essere fatto e si può fare, cioè mettere a posto la pressione, il cambio di un catetere, come diceva l'architetto, a me me l'hanno insegnato, cioè io sapevo, ho fatto l'acupuntura anche ai miei pazienti in ambulatorio, no? È gratuito ovviamente. Poi magari giustamente questo ai giovani medici probabilmente non è molto facile. Quindi che il medico di base possa essere equiparato a un geriatra, no, perché vedo che la popolazione sta crescendo, però in realtà sopra i 15 anni per esempio c'ho dei pazienti che appena finiscono il pediatra vengono, allora questo no. Secondo me però dipende un po' anche dalla sensibilizzazione, dalla coscienza del medico, dalla capacità, perché la signora del primo accordo, però vuol dire non sono in tanti che vedono una frattura mielica della prima cosa, e quindi io capisco. Poi è vero che forse in 8 mesi magari una scappata a Montecatone la poteva fare, però devo dire anche una cosa, vai a vedere Montecatone e poi che cacchio fai? Perché tanto voglio dire, non è che ti insegnano a muoverlo, no? E quindi per cui spero di avere le risposte. A lei invece cerco di rispondere in questo, noi come ordine abbiamo adesso pensato di istituire uno sportello anche per i giovani medici, il che vuol dire nell'ottica della che l'ordine in realtà deve un po' tutelare tutti i medici, quindi io sono dell'avviso che debba tutelare tutti, anche noi anziani, ma chiaramente bisogna tutelare i giovani. Ecco, in quell'ottica si presume, cioè noi almeno ci proviamo, a mandare messaggi tali da poter vedere di dare un minimo di continuità. Poi, se le devo essere sincero, ci riusciamo di sicuro, non glielo so dire, però ci proviamo. In realtà, come dicevo, ci vuole della formazione. Adesso come ordine abbiamo anche in programma di fare, adesso non mi ricordo il nome, con alcuni medici, non compierà, di fare proprio delle giornate di formazione sulla comunicazione. Per tutti i medici, sì, certo. Quindi adesso li faremo, abbiamo fatto questa proposta all'università, però l'università si è un attimo irrigidita perché non vogliono chiamare gente da fuori alle loro cose, e allora lo faremo come ordine adesso, lo programmeremo, perché c'è bisogno effettivamente, c'è bisogno. Scusate Lucia, mi aggancio proprio alla signora in chiusura così, la mia paura invece è che cambi l'aspettativa del paziente giovane rispetto alle future categorie di medici giovani, cioè che si abbassi l'aspettativa del servizio che un medico dà all'utente, cioè la fiducia, vuol dire. Non tanto la fiducia quanto sì, anche la fiducia, però che io arrivi dal medico mi aspetti un trattamento diciamo base, esatto, più basso. Cioè, che io mi adatti agli standard, cioè paziente giovane e le future categorie di paziente giovane si adattino agli standard che sono stati in qualche modo imposti dall'azienda sanitaria. È un peggioramento, cioè che gli utenti si adeguino al peggioramento. Ah, questa è la mia paura. Questi discorsi sono belli, mi dispiace che dobbiamo... Non so se poi riusciremo a riproporre un incontro di questo genere. Due ore sono poche, anche perché i temi che abbiamo buttato lì sono tanti. Ci sono tanti sassi. Grazie.